mio Dio! Ma che succede? Dove sono? Stiamo tornando! È successo di nuovo? Ma è sempre la stessa cosa! Sigla! Che non vedi perché non sono più quelli che già esistono per te. Sinistro della paura della gente, senza terra verde, la musica si riprende. E ben trovati, siamo ritornati, è incredibile, non ci posso credere, sono commosso. Nonostante che Silvano abbia comunque svelato il nostro trucco dell'inizio, non è vero che sta succedendo qualcosa, hai ragione, siamo ripetitivi. Ma sarà la 23esima, che cos'è, la 24, non lo so, che ma numero è? Che non succede? So. Ma no, non iniziamo questa storia. Va bene, comunque saluto appunto alla mia destra il vecchio Silly. Salve a tutti. Salve. Vecchio leone della fonia. Alla mia sinistra la Virgi. Ciao a tutti, sono molto emozionata di essere tornata qui. La professoressa Viola. Buonasera a tutti, è bellissimo, sì, anch'io molto emozionata. E il grande ritorno della nostra Betta. Sono tornata. Ciao Betta. Questo Buonasera. Così diventa inquietante, però è una citazione, una citazione lo di so, Independence Day. O è una minaccia, no. Non lo so, no, no, era la sirenetta. No. Alla sirenetta pure torna. Non so, sì, volendo. Sta qua sotto, no? Ariel, dove sei? Bene, come avete passato? No, vabbè, non ve lo posso chiedere. Come avete passato l'estate? C'hai un paio d'ore, mi sa di sì. No, vabbè, diciamo che avevamo tutta una serie di contenuti dedicati alla fine dell'estate, al settembre, perché volevamo andare in onda a settembre. E invece niente, no. È ottobre, è il 2 ottobre 2021, sono le 17.02 nei meandri di Radio Forte e noi riandiamo in onda per la nuova annata scolastica di 100 Celle Avengers. Che puntata è questa? Dovrebbe essere la 24? Ho un punto interrogativo? No, dite, scusate, non vi volevo interrompere. Qualcuno ha qualcosa quindi, da dire sull'argomento? Io sono molto legato al 23 bucio de culo, quindi io, anche se è già passato il 23, io direi un'altra volta 23 o 23 bis. Siamo subito andati sullo scurrile. Dobbiamo chiamare Martellone. È la tombola. Comunque quello che volevamo dire ovviamente è che abbiamo un problema, essendo tutti un pochino ossessivo compulsivi. Lui. Io soprattutto, lo dico perché bisogna ammetterlo. Allora, che succede? Che la replica montata dalla nostra Virgi per quest'estate, che Ciao. Era un best of The Greatest Hits volume 1 di 100 Celle Avengers, è passata alla storia anche come puntata numero 23, per dei motivi burocratici, tecnici, che non vi starò a spiegare. Motivo per cui questa di oggi dovrebbe essere la puntata numero 24. È la vigilia di Natale. Però oh. Dicevo, siccome siamo ossessivo compulsivi, non vorrei che poi nel tempo questo tarlo ci torturasse un pochino, facendoci pensare che comunque abbiamo barato noi e stiamo sempre giobbando di uno. Voglio un pensiero che ci abbiamo tutti quanti, effettivamente. Siamo tutti ossessivi, sì, assolutamente. O è la 24 o la 20. No, regà, la prossima poi è stata la 25. Vabbè, d'altra parte ci saranno due squadre, chi per il 23 e chi per il 24. A me sembra un po' la storia di Kobe Bryant, che l'unico che non per non prendere il 23 dice io faccio il 24, facciamo che è il 24, tutto a posto. Come okay. Marco Del Vecchio. Esatto. Comunque, se vi può consolare, anche il forte Prenestino ha questo, diciamo, tipo di dubbio da sempre. Perché? Perché il forte è stato occupato in un certo anno, ma la festa del non lavoro, che rappresenta il suo compleanno, il 1° maggio, è stata fatta l'anno prima, cioè nell'86 hanno fatto la festa del non lavoro senza occupare e l'anno dopo l'hanno occupato, per cui poi ogni anno noi siamo che è il 30esimo, il 31esimo, il 35esimo, il 36esimo e essendo anche, diciamo, consumatori di vari eccipienti, poi capita veramente che svalvoliamo e dobbiamo andare a riprendere i manifesti degli anni 80 per essere certi, oppure rifarci ai pochi occupanti di una certa età che sono rimasti. Detto ciò, questo per consolarvi, vabbè, è il posto giusto per avere questi dubbi. Eh no, per farci stare più tranquilli. Certo. Detto ciò, sempre per stare più tranquilli, la Virgi aveva curato questo inizio arrembante a livello musicale. A livello musicale? Beh, innanzitutto, prima del livello musicale a cui ci siamo per addentrare, volevo parlare un attimo, volevo sapere se qualcuno poteva parlare dei nostri nuovi contatti. Cioè, qualcuno li conosce? Ma perché abbiamo nuovi contatti? Contatti social. I nostri nuovi contatti social, certo. Sì, sì, è stata creata proprio da pochi giorni la pagina su Instagram. Siamo su Instagram, ragazzi. Attenzione, siamo non social. Non siamo più solo boomer di Facebook, ma siamo passati a Instagram. E la pagina, diciamo, si intitola uguale come quella di Facebook, Spazi musicali autogestiti. E quindi seguiteci, ragazzi. Che e si tratta Instagram, sì. Stiamo parlando della pagina Instagram della nostra scuola di musica, sì, quella sì. Insomma, dove siamo un po' tutti quanti, ecco. E dopodiché niente, il motivo di tutto questo è che la bestia è andata a bevuto, quindi siamo diventati noi i mostri del social, quindi siamo più... Vabbè, volevo fare sta battuta, niente, scusate, era sempre per dimostrare che siamo in diretta. Siamo il 2 ottobre, sì. Da Forte Prenestino, su Radio 17 Forte. E 17:05. Bene. Siamo entrati quasi in orario dopo Regolamose, che salutiamo. Ciao. E dice contributi musicali. Contributi di cui musicali. Parlare. A chi hai voluto pensare così per partire? Allora, per partire, visto che qui sotto al nostro soppalco c'è un ospite che ormai è la nostra mascotte, cioè Ariel. Dov'è Ariel? È qui sotto. Per farla stare tranquilla e per non farla abbaiare, noi le metteremo la sua canzone, che è l'unica canzone che la fa stare buona, tranquilla e non la fa abbaiare mentre noi stiamo facendo una diretta. Quindi adesso è in arrivo Overload delle Sugar Babes su Radio Forte. complimenti alla crew che ha realizzato questo stacchetto incredibile che comunque richiamava sempre a settembre. Non è più settembre, mi dispiace. Optomber. Ti voglio bene quando cacci. Grazie. Questi neologismi. Do you remember? Comunque, insomma, noi sì, siamo ancora spensierati come se fosse appena finita l'estate, invece già c'è stato un mese di roba che poi vi racconteremo sicuramente nel dettaglio, no, non è vero, però comunque diciamo vorremmo anche rendervi partecipi, visto che già andiamo in onda ogni 15 giorni, poi adesso è passato tutto un estatone, ce n'è di roba da dire. Attenzione, è cambiata la base, incredibile. Yeah. Ma chi l'ha fatto questi mixaggi? Volevo dire che essendo October già messo freschetto, quindi questa è una novità che... Soprattutto oggi, sembra, esatto, che da oggi sia partito, no? È partito il climascio, dici? È partito, sì. Ma quindi volevo fare un po' di chiacchiera sul clima, dici? Simpatico, sì, prego, sì. Simpatico. Cosa direbbe autunno? Iron Man? Non ci sono più le mezze stagioni. Non abbiamo salutato neanche questa, esatto, volta Iron Man. Sì. Ti chiedo venia, caro mio. No. Va bene, ho capito. Quando fa così vuol dire che sei offeso. Allora, io, dedicata anche a te, ho preparato qualcosa che è sempre, diciamo, degno dell'inizio. Cioè, dovrebbe essere da incoraggiamento. Poi può essere che dopo che l'abbiamo ascoltata ci suicidiamo. Cioè, voglio dire, cioè, può avere degli effetti, no, diversi quello che stiamo per ascoltare. Però ci tenevo, proprio perché, diciamo che anche se la stagione è già cominciata, al forte comincia adesso, comincia ad ottobre, si riapre ufficialmente, a parte i palestrati che hanno già fatto tutto un mese di preparazione atletica, li vedevi lì che si allenavano tutti i giorni, e noi con i laboratori e tutto il resto della baracca del forte da ottobre cominciamo a fare casino. E quindi, per dare non solo a noi di Centocelle Avengers l'incoraggiamento che ci vuole, io vi vorrei far sentire questo monologo. Allora, la premessa è questa, proprio perché vi voglio raccontare cosa è successo in quest'anno trascorso bellissimo. C'è stato, fra i vari concerti al forte, il concerto del Ponentino Trio. Ponentino Trio, che è un trio di canzoni romane raccontate e, diciamo, anche spiegate nella persona soprattutto di Costantino detto Costa, cioè il narratore dei tre, colui che ha composto questo monologo che andiamo ad ascoltare, dedicato al forte. Tratto, diciamo, da un famoso monologo di Remo Remotti che, diciamo, diceva addio a Roma in maniera un pochino agrodolce, ecco, se vogliamo dirla così. Io me ne vado da questa Roma! Esatto, da sta Roma di merda. Lui fece questa cosa che in realtà, cioè, per me e per tutti è molto, molto bella, perché oltre a essere una grande dedica a noi, era anche, aveva, cioè, non a caso aveva scelto sto monologo, perché comunque... Diciamo che il forte è un'esperienza che, soprattutto per chi c'è stato tanti anni, poi ti segna, ti lascia delle gioie, dei dolori, esci che non sai bene come comunicare tutto. Invece lui l'ha saputo fare, ha fatto questo monologo, l'ha anche aggiornato negli anni, ogni volta che vengono a suonare al forte lo fanno, noi ci commuoviamo e niente, basta con le parole e ve lo faccio sentire. Sono stato un occupante effettivo di questo centro sociale H24 per tanti anni. Poi a un certo punto ho fatto una scelta, sono andato via. Prima di andare via ho voluto raccontare e salutare tutti i compagni e le compagne che lasciavo qua, quello che avevo vissuto. Allora ho scritto questo piccolo elenco di cose. E fa così. Nel primo maggio del 2007 io me ne andai, come oggi i ragazzi vanno via, col volo low cost dall'altra parte del mondo. Erano altri tempi. Anch'io me ne andai dal mio mondo, me ne andavo dal Forte Prenestino, il centro sociale occupato autogestito di via Federico del Pino Centocelle Roma. Me ne andavo da quella fortezza della fine dell'Ottocento, costruita già sbagliata, da quegli infami di Savoia, quelli che imboccati dentro a Roma nel 1870, una delle prime cose che hanno fatto è stato ad apparecchiare una cerchia di forti intorno a Roma, che poteva anche sparare sulla città, come era già successo a Milano, dove spararono con i cannoni sulla gente che chiedeva il pane. E per questo motivo, in America, fu estratto a sorte Gaetano Bresci, per ricompensare come si meritava Umberto di Savoia per la strage di Milano dell'8 maggio 1898. E me ne andavo da 24.000 metri quadrati di parco, pieni dei sotterranei, dei cunicoli, dei terrapieni, dei casematte, dei rampe, delle scale, dei tori, delle torrette, dei toroni, dei camminamenti, dei archi, delle volte, della cattedrale, del ponte, del cancello, delle chiusure, della porveriera, degli scoli, delle cisterne, dei tompini, delle fogne, degli scantinati, delle celle buie, delle piazze d'armi. Me ne andavo da un parco pieno di alberi, da cace, dei biancospini, dei meli, dei peri, dei noci, dei mandorli, dei ciliegi, dei gelsi, dei arbicocchi, dei lillà, delle orchidee selvatiche, delle piante officinali, il forte delle api, ma anche quello dei cardellini, dei passeri, dei pappagalli, dei piccioni, delle cornacchie, delle civette, degli allocchi, delle rondini. Quel forte dove le cartacce volavano nella piazza d'armi come i gabbiani al mare. Quel forte dove nella bocca della balena bianca ci facevano il nido le rondini. Me ne andavo da quel forte prenestino de Franchino, de Massimone, de Massimino, de Massimetto, de Massi, delle Francesche, delle Alessandre, dei Cicci, dei Paoli, delle Stefanie, delle Simone, delle Paole, de Paoletto, de Catiuscia, de Walter, de Vitti, de Sandrino, de Mara, de Monia, de Pamela, de Rocco, de Simone, de Gianni, de Lori, de Bibi, de Lozzi, de Laura, de Miscia, de Franco, Francisco, De Antonio, De Doricella, De Arvise, De Eros, De Giovanna, De Cesare, De Duccio, De Cate, De Abdel, De Emilio, De Sirvana, De Panico, De Daniela, De Manolo, De Manolito, De Iuri, De Giombini, De Aurelia, De Stefanino, De Alessio, De Giulia, De Roberto, De Sofia, De Antonello, De Gero, De Peppe, De Peppino, De Pamela, De Giordana, De Pasquino, De Lorenzo, De Graziella, De Tusciard, De Pierpaolo, De Archerele, De Caracate, De Simon X, De Simmi, De Gian Antonio, De Valentina e De Valentona, De Piero, De Leonardo, De Nina, De Angelo, De Tullio, De Arianna, De Giuliano, De Cao, De Claudione, De Arvaro, De Cappa, De Pasquale l'Avvocato, delle sorelle, dei gemelli, delle amiche delle sorelle e del fratello dei gemelli, De Silvana, De Damiano, De Iskra, De Cecilia, De Vania, De Lori, De Maider, De Fiorella, De Anna, De Rocco, il forte dei nigeriani, dei curdi, dei rumeni, il forte De Sanela. Me ne andavo da quel forte che era pure il forte del Camino, del Caciara, del Spino, del Biancaneve, del Faciolo, del Facioletto, del Mefisto, del Cresta, del Treccia, del Patata, del Drago, del Beirut, del Roscio, del Trella, del Slippiniar, del Eros, del Bordino, del Arbano, del Red, del Ravi, del Dottore, del Cuculo, del Suano, del Straccia e Mappina, del Pizzagor, del Nutella, del Caino, del Vittimo, del Fandonia, del Bucia, del Menzogna, del Farfisa, del Brodo, del Cicoria, del Vedrata, del Leprone, del Barabba, del Mussolini, dell'Indiano, del Ligna, del Lampadina, del Clava, del Joao 1002, del Scarface, del Massimetto Lebanista, del Forte de Poca Luce, del Lattuccio, del Marè, del Caraccio, del Red, del Scopa, del Sigaro, del Pisello, del Giambuca, del Pippo, del Nino, del Mimmi, De Ball, De Chem, De Giacomino, De Tre Palle, De Napoli, De Panama, De Brizzi, De Zia, De Cecio, Del Fetta, Del Pagnottella, Del Forte, Del Fio del Gazebo, Dei Fi del Gazebo. Me ne andavo da quel forte prenestino della falegnameria, dello studio della registrazione, della grafica, del disegno, della lavorazione del ferro, della serigrafia, del teatro, del cinema, della sala prove, dei gruppi musicali, dell'infoshop, della sala da tè, dell'enoteca, dei magazzini, della sala dei saltimbanchi, della palestra, del pub 12 di tutto, del dormitorio, della sala prove DJ, della taverna dove potevi mangiare qualunque cosa, il forte dei tramonti in piazza d'armi, il forte delle sostanze psicoattive, dei pusher, degli amministratori di sostanze, de una cartina una sigaretta, un filtro, un'aggiunta. E il forte delle chicche, delle bottarelle, quel forte antiproibizionista che produceva un'erba da paura. Me ne andavo da quel forte prenestino delle assemblee, delle comunicazioni interne e esterne, del io avrei un progetto, posso venire a abitare qua dentro? No, come no? E allora non ce lo scrivete fuori, centro sociale. Quelle assemblee, certo, dopodiché, visto che dobbiamo prendere una decisione, adesso che si è fatto un po' tardi, sarebbe meglio parlarne in un altro momento. Me ne andavo da quel forte della sottoscrizione, del servizio d'ordine, degli assalti alla sottoscrizione, de... Ah sì, c'è ma 1,37€, siamo in 9, ce fai entrare? Ah vabbè, ho capito, c'è stato a fare i sordi. Allora non ce lo scrivete fuori. Quel forte prenestino de... Buonasera, sono un ispettore della SIAE. No, fermo, no, no, dico no, ah! Me ne andavo da quel forte prenestino libertario, anti-autoritario. Così anti-autoritario che non si sapeva mai se le decisioni erano prese per le cose dette o per il silenzio delle persone. Quel forte non allineato, sganciato da tutto, ma in relazione con il movimento sempre. Un po' per i cazzi sua, perché di qualunque cosa si tratti, noi non siamo d'accordo. Quel forte del coordinamento dei centri sociali, della rete antifascista, antirazzista Roma Sud, del comitato dei quartieri, del cortocircuito, del Visto Quinto, del Faro, del Strike, del Villaggio Globale, della Torre, di Aure e Marco, del Breakout, di Pirateria, di Esc, del 32, della Radio, di Intifada, della SNIA, di Agrobax, dei disobbedienti, dell'MDMA, della delibera sugli spazi occupati, degli sgomberi, delle occupazioni agli assessorati, il forte dei cortei. Me ne andavo da quel forte che era pure il forte dei Ruti, de Ciosca, de Gisella, de Perro, de Ciacchabò, de Casilino, de Ombra, de Nerone, de Caia, de Brunetta, Tiger Botulina, de Ansia, de Narco, de Bianca, de Berta, de McLeod, de Scoria, de Edur, de Spinti, de Strullina, de Cane Nero, de Tevolemo, de Gnappo, de Totò e de Sottiletta, de Ketchup, de Cozza Amara, de Pece, de Aristide, de Capoccione, de Tora Kiki, de Lilith, de Morgani, de decine e decine de cani e de portatori de cani, che gli pareva naturale portare in giro il cane al forte che era tanto che stava chiuso. Tutti quei cani che riempivano il forte de merda, e se il cane loro te abbaiava, te azzannava, te dicevano strano, non l'ha mai fatto. Ma tu che gli hai fatto al cane? Me ne andavo da quel forte prenestino di tutte le persone che l'hanno occupato, attraversato, e poi c'erano andate via, e poi erano andate via, alcune per poco, altre per molto, altre per sempre. Di quelli che ci hanno provato, che ci hanno svoltato, che ci hanno rimesso, che ci sono visiti sotto, che ci hanno sbroccato, che ci hanno imbroccato, che ci hanno imboccato, che ci hanno cacato, che gli è risultato, che ci hanno trovato tutto quello che non avevano trovato de fuori. Me ne andavo da quel forte prenestino delle contraddizioni, della roba sprecata, della plastica, della vernice lasciata aperta, dei pennelli seccati, dei tavoli marciti, del non mai poi di quello che devo fare io. Quelli che, se questo è del forte, è de tutti, e se è de tutti ci faccio quello che cazzo mi pare. Il forte dei quadrifusi, dei generatori senza gasolio, dei finali saltati, dei trapani bruciati, degli attrezzi spariti, delle migliaia e migliaia di ettolitri di birra che se siamo bevuti. Me ne andavo da quel forte prenestino dell'assarti dei fascisti, delle coltellate, delle bastonate, della Digos, degli infiltrati, delle perquisizioni a casa, dei posti del blocco, delle convocazioni in questura, delle minacce di sgombro, delle occupazioni della circoscrizione, degli spacciatori e dei tossici intorno al forte e alle porte anche dentro. Me ne andavo da quel forte prenestino dell'8 marzo, del 25 aprile, del 1 maggio, del 12 dicembre, quello del 15 agosto, quello del 24 dicembre, delle torette style, dei rave, dei concerti, dei festoni, degli after hour, dei chill out, della nuova droga, del qualunque tipo di droga. Ma che te sei preso? Chi te l'ha data? Quanto costa? Ma che te fa? Me ne andavo da quel forte prenestino antiproibizionista, così antiproibizionista che se facciamo l'erba da soli, delle sette feste del raccolto, finché mi ha dovuto smettere, ci veniva troppa gente, migliaia e migliaia di persone, morti di questi avidi, ingordi, ma come? Solo questa, ancora, ne voglio ancora! Dell'ultima festa del raccolto, quella delle 6.000 bustine distribuite prima delle 5 del pomeriggio. La festa non era ancora cominciata, ma l'erba era già finita. Me ne andavo da quel forte prenestino sotto sgombero, un anno sì e un anno no. Quello messo all'asta, stop all'asta. Me ne andavo da quel forte prenestino delle 5 assemblee a settimana, quelle ordinarie, quelle straordinarie, quelle d'emergenza, quelle plenarie, le convocatorie, degli studiosi delle culture alternative, delle tesi sociologiche, psicologiche, d'architettura, di cinema. Me ne andavo da quel forte prenestino dei concerti, degli spettacoli, dei festival dell'arte, delle mostre del fumetto, del festival teatrale, del cinema all'aperto, delle culture alternative, del critical wine, del mercato tera-tera. Me ne andavo da quel forte prenestino delle esagerazioni, di quelli arrivati dall'altra parte del mondo per farci vedere quant'erano punk e per farcelo vedere ci hanno sfornato i piatti. E il forte prenestino di quei due carabinieri che sbroccarono una notte durante un rave, i tutori delle forze dell'ordine che per riportare l'ordine dentro la piazza d'armi davanti a 3.000 persone iniziarono a sparare. E se questo è l'ordine, me posso immaginare che cazzo puoi fare quando vuoi creare il disordine. Me ne andavo da quel forte prenestino di tutti quelli che l'hanno occupato, attraversato, visitato, scansato, di tutti quelli che ne parlavano bene e di tutti quelli che ne parlavano male, di quelli che ci si facevano i film, di quelli che ci pensavano che se pensavano che ci stavamo a fare i sordi e di quelli che sapevano che ci avevamo i buffi. Me ne andavo da quel forte prenestino che se a te te rode il culo e sta incazzato va tutto bene, ma se te ridi e sei allegro, ma che cazzo te ridi? Me ne andavo da quel forte prenestino degli ecomostri, delle discese occupate, degli stanzoni che quando abbiamo occupato erano tutti aperti e comunicanti e mo sono tutti chiusi, mo non comunicano più, un po' come noi, del ripetersi perpetuo delle stesse dinamiche, degli stessi errori, di quelle frasi che avremmo potuto enumerarle, tanto erano frequenti, e disse solo il numero, così, tanto da farci stare insieme. Me ne andavo da quel forte dove mancava un grande sogno irraggiungibile, un grande progetto che ci facesse sognare qualcosa di unico e irripetibile, come le nostre vite, generose, fatte di cuori che amano. Un sogno che ci desse la forza di vivere questo reale così assurdo e ipocrita, agito da irresponsabili, avidi e arroganti, che non lascia nessuno spazio all'immaginazione. Un sogno che fosse come un luogo mitico, dove i nostri ideali potessero vivere liberi come animali fantastici, in gara tra di lui, loro, per offrirci il meglio di una mille e una notte. Un bersaglio per le nostre frecce, costruite con le lacrime e con il sangue, e dipinte dai colori della rabbia, dell'amore, della solidarietà e del rispetto. E bentornati a Centocelle Avengers, mai uguale a se stesso. E bentornati a Centocelle Avengers, mai. E bentornati a Centocelle Avengers, mai. E bentornati a Centocelle. Scusate, volevo fare la gag. Dicevo, bentornati a Centocelle Avengers, mai uguale a se stesso. Questo era Costa, che ci raccontava veramente tutto, tutto, tutto quello che si può raccontare sul forte prenestino, anche quello che non volevate sapere, in questo quarto d'ora lo avete sentito. Beh, è un grande dono della sintesi comunque. Sì. No, diciamo che lui voleva proprio essere preciso e nominare tutti, tant'è che tutti stavano lì a aspettare il proprio nome, il proprio cane, anche perché ha nominato tutti i cani, insomma, era una... una cosa molto completa. Questo diciamo. Però era pre-Ariel. Sì, sì, manca Ariel, mancano i Virgiani, mancano diverse persone. Ma ci sei tu. Ma ci sono. Ma ci sono io, infatti è un po' così autoreferenziale anche questa cosa. Ovvio. Che strano. Detto ciò, mi aiutate a capire cosa succede adesso, dopo che ci siamo così distratti? Adesso noi facciamo un passo indietro nel 2017, se lo ricorda maestro, lei c'era. Ma quando facciamo i passi indietro che cos'è? Ah, è guarda. Un 100 celle a Marcord con sigla. Ah, e dici che al secco io mo la sigla secondo no, te. Prova. Proviamo. Ricordati di te com'eri prima. Un'estate fa, un'estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Un'estate fa, mi ricordi. Un'estate fa, un'estate fa. Tutti quanti stiamo già aspettando. Un'estate fa, messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Un'estate fa, ricordati di me. Devo migliorare i finali comunque, sto pensando a questa cosa. Qui ogni sigla si balla duro comunque, non ci potete vedere, sì. Ma succede. Sì, anche perché oggi non abbiamo messo la stanza a Gizzi perché io non mi sentivo, diciamo, presentabile. Va bene. Sempre perché conto solo io. Ma siamo tornati dall'estate, dobbiamo prima ricablare tutto, rifare tutto. Che già abbiamo. È stata lunga rimettere a posto tutto, giusto maestro? No, vabbè, la verità è che sto con questo asciugamanetto perché... perché sudo, c'ho il raffreddore, c'ho il mal di gola e siete solo voi la mia cura, però non volevo farlo vedere. E io che pensavo altri. Che quindi fosse solo bazziato. Per il discorso del baby scratch, guardi. Abbiamo un nuovo device, ragazzi, anche, abbiamo un nuovo device. È anche forse per questo che l'ho fatto, non lo so. È anche che forse per questo. È anche che forse possiamo okay. giudicarlo come Scusate. Il frutto dell'amore tra Alexa e Iron Man o è troppo sì. Va bene, i device sembravano concordi. Bene. Comunque stavamo parlando di 100 celle a Marcord, cioè ricordi di un saggio andato. E senza chiederti per forza l'anno, perché magari 2017 incredibile, ah, veramente grande, ecco. Ma come fa? Allora ti lascio presentare completamente il pezzo. Sì, il pezzo bellissimo di Pino Daniele e, Yes I Know My Way, con un groove. Ma ascoltiamolo, va. Top. Mi piace, veramente. Lasciamo spazio alla musica. No, quando le presentazioni sono così, cioè, io lascio le parole alla musica. We'll be right back. Era tanto che non mettevo questo stacchetto toccata e fuga, mi faceva piacere. E questo quindi era un gruppo di Salerno, giusto? Ah, io posso non rispondere. Sentite la voce cosa. Che tremola, perché lei inizialmente ha detto lo presento io, poi ha detto come al solito ci tenevo a presentarlo, perché Pino Daniele è uno dei miei preferiti, diciamo, da sempre, quindi ecco, proprio per affetto. Però poi devi prendere le distanze da Napoli. No, non è che prendo le distanze, ma non posso, proprio perché ovviamente amici napoletani poi si farebbero sentire dire che, cioè, paragonarlo a Salerno, cioè, portiamo alta anche noi la bandiera della Saitana. Posso chiedere una cosa alla maestra? Dimmi. Ma quindi tu mi stai dicendo che ci ascoltano da Napoli e potrebbero arrabbiarsi? No, che ne so, può darsi, cioè, no che si arrabbiano, diciamo che si prendono collera. Pino Daniele è un po' il sud, diciamo, anche se è nato a Napoli, però ecco, posso dire questo, che rappresenta un po' tutto, no? Il sud e il suo groove, appunto, come dicevo prima, queste musiche, queste sonorità. Io belle. posso dire di essere contento di aver messo in difficoltà anche quest'oggi la professoressa Viola. Come lo fa apposta. Grazie, lo facevo apposta, grazie, ma lei ne esce sempre vincitrice. TVB. Anche io. E per fare questo mi sono scordato che cosa succede adesso, ma questa è ormai una cosa normale. Adesso noi volevamo passare la parola, forse, se ho capito bene, alla maestra Britta. No, vedi, esatto, ecco, lo sapevo io. Che noi ci parliamo. La scaletta ce l'ho io, guardatela. È il momento in cui io riprendo sì, le redini della. Non è vero. Ho capito. Cosa hai fatto quest'estate, Daniele? Hai lavorato per caso? Sono andato in vacanza. No, vabbè, c'era Virginia che mi faceva vedere la scaletta, così su Gizzi non si è visto. E quindi che cosa volevo dire? Che così come il mio amico Silvano nell'ultima puntata era così entusiasta di, come si chiama lì, Tiberio Timperi, Tamberi. Tamberi. Il simbolo della riscossa dell'atleta che si riprende dopo un grande... Scusi, ha vinto anche la Diamond League e quindi è stato selezionato come il migliore atleta del 2021. E questo importa a molti. Cioè, l'Avengers per lo sport. E questo, cioè, vabbè, io dicevo appunto la voglia di riscatto, mi bastava questo dato qui. Poi, se vogliamo anche con nozionismo dire che cosa ha vinto il grande Tiberio Tamberi, che chiamato anche il signor mezza barba, perché gareggiava con mezza barba, come gli amplificatori. Ma a me sta benissimo, però volevo portarla sul musicale, perché questa cosa che tu hai così citato l'altra volta mi ha ispirato a parlare dei Joe Breaker, un gruppo emocore degli anni 90 che io, come di consueto d'estate, rispolvero le cose perché sono un abitudinario, non vi giudicate, siete come me, e quindi riprendo i dischi che mi sentivo prima e quest'anno ho ripreso They Are You dei Joe Breaker e per questo motivo mi sono ricordato anche un pochino la storia del grande Blake, che una volta per me era solo il cantante di Joe Breaker, ma oggi facciamo radio, quindi devo anche dire che si chiama Blake Shanson. Vabbè, Blake, ok, cantante di Joe Breaker, il quale ha la caratteristica di questa voce un po' roca, che lui non fa roca come Ligabue apposta, ma perché ha avuto dei seri problemi di polipi alla gola, forme cancerogene che lo hanno costretto poi a lasciare il palco. Poi ci è tornato con una grande verve e soprattutto con un notevole scoglionamento nei testi e nelle lyrics, tale che ha dato ispirazione a quello che dopo è stato un po' di più l'emocore, perché loro ancora rientravano nel, se vogliamo, punk rock. Però veramente la sua, diciamo, poetica, disperata ma speranzosa, ha fatto molto presa e soprattutto a me ha fatto venire voglia di farveli sentire. Quindi questo è I Love You So Much That Is Killing Us Both, cioè ti amo così tanto che ci sta uccidendo entrambi, per farvi capire un po' il trend. Get married, just go on killing each other. I don't think I hate you enough to commit you to me. Happy all the time, it's all we ever do. Steady in decline, it's all we ever do. I wanna call you and tell you that I'm a fan. All my friends know better, but I can't quite hear them. Still for the life of me, I can't imagine a home. Good things, all I want, all I want for you. Hold me, set me free, all I want from you. Ed erano i Joe Breger su Radio Forte 100 Celle Avengers. Qualcosa mi dice che ci torneremo su. Ma maestro, maestro, ma perché questo nome? Ah, giusto. Grazie per la domanda. Incredibile. Joe Breger, che significa mascella spaccata, è il nome di un particolare tipo di caramella in commercio in America, che evidentemente, oltre a essere di quelle fresh mint, era anche particolarmente dura. E quindi questo è il nome che hanno preso i nostri amici, forse cercando di dire qualcosa anche su loro stessi, ma comunque avendo scelto a prescindere un nome abbastanza figo, per come la vedo io. E, detto ciò... Che cosa succede questa settimana, maestro? Che cosa succede questa settimana? Per essere attuali e sempre dimostrare che siamo in diretta alle 17.45 su Radio Forte 100 Celle Avengers. 2 ottobre 2021. Mai uguale a se stessa. Mai uguale a se stessa. Quello che vorrei dire è che il 6 ci sarà l'Open Day. Wow. Che il 6 ci sarà l'Open Day. Che il 6 ci sarà l'Open Day. Che il 6 ci sarà l'Open Day. Che il 6 ci sarà l'Open Day. Che il 6 ci sarà l'Open Day. Ok, con questo, con questa performance, grazie pubblico, grazie, grazie, sono il vostro DJ preferito. Volevo dirvi che appunto la scuola di musica apre le porte ai nuovi iscritti. Il 6 di ottobre, mercoledì alle ore facciamo 20:30, 21. Ce lo sta dicendo adesso. Lo sto dicendo, avevamo parlato di 7:30, ma tanto poi segno sull'agenda. No, abbiamo segnato sull'evento 21, però vabbè, comunque ve lo preannunciavo. E in questa occasione, come di consueto, verranno presentati i corsi di strumento singolo, i corsi, i laboratori di musica d'insieme, i maestri in sé per sé faranno una piccola bio, no, non è vero, si presenteranno in quanto tali, ma soprattutto insieme daremo una risposta alla domanda di ogni anno: che cos'è la musica? Detto questo, poi si mangerà, si berrà e niente, si starà molto bene insieme, si formeranno le classi si formeranno molto direttamente la cerimonia del cappello parlante, forse non riusciamo a farla proprio il giorno dell'Open Day, però è anche questa l'occasione per dire a voi che mi state intorno e anche a chi ci sta ascoltando che anche quest'anno ci sarà una divisione, una segregazione degli studenti di musica d'insieme. Ce lo sta dicendo perché ci vuole già separare, già l'ha detto, perché già vi separerei, esatto. Ma i nomi saranno sempre della Mesopotamia. Ecco, quello che invece vorrei che cambiasse è proprio questo, ma non perché la Mesopotamia a me è piaciuta molto, anche perché l'ho inventata io, ma era una minchia era una minchiata qualsiasi. Ma lei è Pippo Baudo, l'ha inventato quest'anno, io quest'anno ha già pensato, maestro, vuole rifarsi a qualcos'altro, rimanere sulla storia, diciamo. Usiamo diciamo le casate di Hogwarts. Intanto c'è il dubbio che i gruppi possano non essere quattro, quindi già Hogwarts non funziona. E i quattro dell'Apocalisse non funziona, i quattro evangelisti non funziona. Cioè, insomma, tutti quelli che sono quattro. I quattro Beatles. Dobbiamo andare sul cinque, tipo i cinque precetti. Le Spice Girls. Cinque. Le Spice Girl, i 5 Power Rangers, comunque vabbè, cercheremo dei nomi per questi nuovi gruppi, a meno che quest'anno l'identità di gruppo non sia tale da trovare un proprio nome, ma questo ancora non è mai successo, quindi non diciamo niente. Detto ciò, vi rinvitiamo nuovamente, lo ripeto perché siamo in radio, poi la gente mercoledì si distrae, mercoledì 6 ottobre alle ore 21, tendenzialmente davanti alla sala prove di Musica Forte, ma poi in realtà nella sala concerti ve lo dico già, perché saremo talmente tanti che non si potrà stare dentro la sala. Faremo poi delle visite guidate, perché è giusto che vediate anche dove si svolge la scuola in sé per sé, ma poi ci vedremo in sala concerti. Vabbè, poi scopriremo che la sala concerti era occupata perché non avevo avvisato nessuno e niente, ci sposteremo un'altra volta, ci sarà Peppino che prova da solo. Esatto. Questo mi fornisce il là per parlare di una categoria che si esibisce spesso nella nostra scuola. Ma lei che... per caso ha una sigla? Dici? Sì, parliamo dei solisti e abbiamo la sigla. E ci sarò con tutto il mio entusiasmo, un'altra storia. Ok, mi sa che il BPM ha sbagliato. È stato molto bello. Mi è piaciuto Piero Pelù in questa versione. Sinceramente mi è piaciuto. Forse perché avevo alzato questo valore qua, non lo so. Comunque passo la parola a una vera solista. Eccola! Salve ragazzi, parliamo dei solisti, questa categoria sempre un po' vessata. Ma giusto per mantenere l'identità di questa rubrica, abbiamo lamentele sui solisti anche oggi? Assolutamente, ancora non abbiamo cominciato la scuola. Infatti, a ottobre è impossibile. Aspetta che iniziamo. Wow. Almeno, dai. Ok, perfetto. Una volta. Aspetta novembre. Dai. Allora, questa volta diciamo che questa rubrica è un mea culpa nei confronti di Raffa. Che salutiamo. Che la salutiamo. Ciao Raffa. Allieva della maestra Serena. Che nell'ultima rubrica che abbiamo mandato un suo pezzo, purtroppo è stato interrotto per motivi che non sapremo mai. Tempo. E quindi rimanderemo un suo pezzo. Ecco Raffa con Angel of Montgomery. Thank you. E di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Abbiamo ascoltato, ripetimi il titolo, Angel of Montgomery di Raffaella. Ma perché parto bene e poi scaciotto? Va bene, comunque ringraziamo Raffa e diamo appuntamento alla prossima per i solisti. E passiamo senza base, perché comunque no? Perché è un momento importante. È un momento talmente importante che è senza base, ma secondo me è colpa mia, ma vabbè. Mo... Guarda, adesso la facciamo la... E vabbè, comunque fatevi almeno essere sicuro che ci sia qualcosa. Sì. Ok, grazie Iron Man, meno male ci sei tu. Non capisco. Va bene, non ti preoccupare. Sta di fatto che io in questo momento sono emozionato perché si apre quella che già avevo preannunciato essere la rubrica nuova detta Rise and Fall. Emozionato perché ho passato tutta l'estate soltanto a fare la sigla, perché io ormai è bellissima, io faccio spoiler, mi specializzo in sigle. E, che cosa tratta Rise and Fall? Gli scioglimenti e le reunion dei gruppi, quindi un po' l'agenzia matrimoniale musicale del 100 Celle Avengers. Quindi andiamo a prendere in esame questo fenomeno, diciamo dal punto di vista un po' business, della reunion nonché dello scioglimento con relativo concerto, big concerto, di cui i musicisti sembrano essere ghiotti in questo ultimo periodo. Ora, sempre senza musica che comunque disturberebbe, bravo, grazie. Il primo gruppo di cui andiamo a parlare sono loro. Trattasi dei Duran Duran. Perché ho scelto loro? Perché nel mio, diciamo, nella mia osservazione sono stati fra i primi di questo periodo recente a dire: oh, ma perché non si riunimo che famo un sacco d'esordi? E sono anche riusciti a fare più di un album, cioè nel senso c'è stata reunion e reunion. Ci sono quelli che la fanno un po' di facciata con magari gli ultimi componenti anziani che non si reggono più in piedi, prendono 2-3 pischelli come turnisti, fanno i concerti in giro e diciamo squalliriscono un po' la situazione, uno preferiva ricordarseli com'erano. I Duran Duran invece hanno fatto ben 3 dischi già da quando sono tornati e devo dire, sempre a loro, cioè, in parte perché ci sono affezionato un pochino per l'infanzia, ma sono belli, dai. Ma quando ero piccolo li odiavo, cioè, beh, è chiaro, il fenomeno è sempre il trash, cioè quello che poi odiavi da piccolo poi diventa trash e ti piace tantissimo. Comunque oggettivamente erano una band diversa, perché nonostante sia sempre quel tipo di band un po' così patinata, molto così di richiamo, cioè suonavano pure, questo volevo dire, a differenza di altri, che Virginia non si arrabbierà se cito i Backstreet Boys o insomma varie boy band composte solo da cantanti. I Duran Duran erano effettivamente una band vera e propria, c'era il chitarrista, c'era il tastierista e suonavano e cantavano davvero, anche perché il playback, diciamo, c'era, ma era sempre quel formato, cioè era proprio quello brutto. Cioè, mentre oggi c'è il playback, quello che cercano dei piatte per culo, cioè de fatte ci crede veramente. Una volta il playback era proprio sputtanato, cioè proprio si capiva che stava andando. E quindi loro. Tipo i Muse d'Aventura, per dire. Tipo i Muse d'Aventura, esatto. Tipo quelli le storie tese al Festival Bar. E chi più ne ha, più ne metta. Loro invece erano abbastanza, devo dire, genuini al loro tempo, e anche mo al ritorno, tutto sommato, nonostante l'età, si sono dimostrati abbastanza prestanti. Ora, nella rubrica Rise and Fall, io vi vorrei dire che non ho lanciato la sigla. Che era la cosa più bella di tutte, però è perché c'è stato il problema della musica. Ma tutta perché ero per troppo farla. Emozionato da sto fatto della sigla. Tra l'altro me la so persa, ve lo dico, cioè sigla Rise and Fall, eccola. Allora, questa... allora, fate finta che non ho detto niente, siamo organizzatissimi e questa è la sigla. La nostra relazione è terminata. Insieme a te non ci sto più. Lasciamoci. Lasciarsi un giorno con essi dire addio. Lasciarsi e qui non ci sto. Poi. E improvvisamente stiamo di nuovo insieme. Stiamo insieme di nuovo. Che bellezza. La nostra bella vale. Lo manda. Ricominciamo. siamo un disciplo. Siamo sotto sotto la cenere. Ci saranno chi ti aspetta ancora. Ma che succede? Molto bene, e questa la sigla sempre col silenzio di tensione che la fa finire. Se non abbiamo un problema tecnico a 100 Cell Avengers ogni puntata non siamo contenti. Grazie Crew per questo sottofondo. E quindi io vi vado a parlare dell'altro gruppo di oggi. Perché? Perché noi trattiamo scioglimenti e reunion, ma anche solo scioglimenti, cioè scioglimenti di gruppi che in effetti vorremmo vedere riuniti prima o poi. In questo caso io vi parlo dei Blue Vertigo. Ti piacciono le riviste di meccanica? Cioè, sentite che robetta. No, continua. Cioè, quello che dico, ma non era meglio ricordarselo così, Morgan? Allora, il discorso delle reunion e degli scioglimenti è che poi tutti aspirano, cioè, diciamo, aspettano che ritorni il grande gruppo. Io, cioè, sono rimasto anche un po' diciamo toccato dal pezzo che poi Morgan scrisse quando lasciò i Blue Vertigo, che noi abbiamo cercato di fare anche a Musica Insieme. Per fortuna non abbiamo quella versione qui, abbiamo quella vera, che era un po', cioè, mi ha fatto un po' pensare anche a momenti personali vissuti con la band, e fondamentalmente faceva capire che da lì in poi Morgan sarebbe andata alla deriva e ha mantenuto la promessa. Cioè, quello è un pezzo bellissimo, poi da lì in poi tutte cagate, finché poi a un certo punto uno dice: ma perché non torni con la band? E in questo caso non sappiamo veramente se questo succederà, e forse non è un buon augurio per il povero Andy, l'altro strumentista famoso, diciamo, dei Blue Vertigo, che spera proprio che Morgan si continui a fare cazzi sua tranquillamente senza ripensare al passato. Però io preferirei, insomma, che tornassero, perché in fondo sentite che robetta, anni 80. Io poi li vidi anche una volta al Villaggio Globale, incredibile, e nonostante che già lì si capiva che Morgan era antipatico come la sabbia, però c'avevano il loro perché, e lui soprattutto c'aveva il suo perché, perché è antipatico ma bravo. Detto ciò, andiamo a sentire il pezzo malinconico che scrisse quando si separarono, e con questo andiamo a chiudere per questa volta la rubrica Rise and Fall, che, scusate, è andata in onda in questa maniera un po' psicopatica. Altrove. Oh, ma ho sprecato tutta l'energia per il ritorno. Lascio le parole non dette e prendo tutta la cosmogonia e la butto via e mi ci butto anch'io. Sotto le coperte che ci sono le bombe, come un brutto sogno che diventa realtà. Ho deciso di perdermi nel mondo, anche se sprofondo. Applico alla vita i puntini di sospensione che nell'incosciente non c'è negazione. Un ultimo sguardo commosso all'arredamento e chi si è visto si è visto. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni. Lascio che le cose mi portino altrove. Lascio che le cose mi portino altrove. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle cose, dalle posizioni. Dopo la malinconia di Morgan, veramente abbiamo finito le rubriche di pure cazzate e andiamo nel lato culturale, se posso dire, della nostra trasmissione. Scusa se ti interrompo. Prego. Io stavo dicendo, dopo la malinconia di Morgan, un'altra malinconia. No. Perché questo è un là che ti do in questo momento. È un là che mi dai, ma sempre per quello che penso, voglio dire, per una sigla. No. Per la sigla, sì. Ma certo. Certo, non se la scordiamo. Perché solo quando conduce il suo programma lui non manda la sigla, ma quando le rubriche gli altri. Quando avete la vostra rubrica vi impongo la sigla. Oh, ma non hai mandato la sigla, non hai detto la sigla. A costo di bruciarvi anche l'introduzione fatta bene, io. No, ma c'è la sigla? Vabbè, sono un po' becero. Quindi abbiamo Music and Poetry, sigla. Lasciatemi leggere, sentire questa poesia. Vorrei e non so leggere, ho voglia di sentire questa poesia. Il palco è tuo. Eccomi. Che cosa ci leggi oggi? Allora, la prima poesia per adulti, facciamo quella prima per grandi. No, ma in realtà non ci sono tante. Vabbè, poi ne parliamo dopo. Comunque, la prima è Charles Baudelaire e L'uomo e il mare. Uomo libero. Ma vuoi il mare? Scusa. Maestro, mi mandi il mare. Sì, infatti l'avevamo detto. Vabbè, scusate. Cioè, scusa, qui ce l'abbiamo i mezzi tecnici, okay. Usiamo. Sì, è vero, quindi è vero. Dicevamo l'uomo e il mare. Oh. Uomo libero, tu amerai sempre il mare. Il mare è il tuo specchio, contempli la tua anima nello svolgersi infinito della sua onda. E il tuo spirito non è un abisso meno amaro. Ti piace tuffarti nel seno della tua immagine, l'accarezzi con gli occhi e con le braccia, il tuo cuore si distrae a volte dal suo battito, al rumore di questa distesa indomita e selvaggia. Siete entrambi tenebrosi e discreti. Uomo, nulla hai mai sondato in fondo dei tuoi abissi. O mare, nulla conosce le tue intime ricchezze, tanto siete gelosi di conservare i vostri segreti. E tuttavia ecco che da innumerevoli secoli vi combattete senza pietà, né rimorsi. Talmente amate la carneficina e la morte. O eterni rivali, o fratelli implacabili. Ma come fa? Io spero sempre di dire ma come fa al momento giusto, magari c'era la pausa. comunque cioè, un ringraziamento all'operatore del loop audio del mare che sì, era che finito e l'ha rimandato da casa. Ringraziamo anche il mare. Ringraziamo anche il mare. Certo, sempre. Comunque è ovvio che tu non sei venuta con una sola. No, a bussare quei piedi. Stavo dicendo che sì, c'è un'altra poesiola, ma diciamo questa comunque io l'ho detto che poteva essere per bambini, ma non è poi tanto per questo bambini. Che la musica è triste. Però sì, infatti, vabbè. Rondini addio di Giovanni Pascoli. Dunque rondini addio, dunque andate, dunque ci lasciate per paesi tanto a noi lontani. È finita qui la rossa estate. Appassisce l'orto, i miei gerani più non han che becchi di gru. Oh, se rondini anch'io. Voi cantate forse morti eroi su quest'alba dalle vostre altane, quando ascolto voi parlare tra voi una vostra lingua di gitane, una lingua che più non si sa. Oh, se rondini anch'io. O son forse gli ultimi consigli ai piccini per il lungo volo, rampicati stando al muro i figli che al loro nido, con un grido solo, si rivolgono a dire «Si va?» Dunque rondini, addio. Grazie. Ho i lucciconi anch'io. Cioè, ma te che bambini frequenti, io non ho capito. Cioè, gli pia bene quando gli leggi? Beh, diciamo che questi, vabbè, ovviamente bambini di una fascia di età un po' più, ecco, che possono, possono comprendere alcune cose, cioè tipo che alla maestra Viola non piace l'autunno, no, l'autunno, si vede, si nota. Questa, allergica per caso? Sì, a parte l'allergia stagionale che mi perseguita, però poi di questi tempi avere un'allergia non è facile e... Ma ne sa qualcosa lui. Nonostante le tue difese, nonostante il tuo volere, il tuo destino, in ogni gabbiano che vola c'è nel cuore un piccolo grande Jonathan Livingston. No. Grazie, oh, grazie. Ecco, grazie Iron Man. E quindi è con questa allegria che sì. Ci diamo appuntamento alla prossima per i bambini soprattutto, cioè così. Certo. No? La prossima sarò più in forma, dai. Siamo incantati tutti. Ringraziamo come al solito la maestra grazie, Viola grazie per voi, aver regalato a noi un pochino di cultura. Grazie. E poi dopodiché io non so cosa succede, ma quello dopodiché non lo so. Lo sa solo Virginia. Lo sa solo Virgi. C'è un brano da mandare di cui posso fare. C'è un brano da mandare, vuoi dire? C'è un brano da mandare, c'è un brano da mandare, c'è un blu. Brano che vi mando. No. Prego, dai, scusami. Io ero ad occhi chiusi ad attendere. Il brano di cui stiamo per andare ad ascoltare il brano è di due artisti. Il brano ok. Prego. Ah no, pensavo che ci fosse del Baby Scratch. No. Ok, era grazie. Solo per far notare il nuovo device. Ciao. Allora, le due artiste che prenderemo in considerazione in questo momento sono Amber Navran, che è la cantante del gruppo R&B Moonchild, e Mae San, spero di pronunciarlo bene, che è una polistrumentista jazz, che si sono messe insieme per fare questa collaborazione. E il brano che andremo a sentire è del 2019, sì, e si chiama Bond. Sulla per forte, fare questa collaborazione e scusate. Il brano è il Baby Scratch. Ma come? Che andremo a sentire del 2019. Sometimes we have no clue which way to go. Oh, but that's okay. We all are finding our way. Listen to your heart. Find your inspiration. gentle challenge. Don't worry, be happy, happy, happy. E niente, risparirà a base in facciamo di nuovo in diretta su 100 Cell Avengers, il momento in cui la situazione si fa dura, che la, dai, che la musica se ne va e noi quindi rimaniamo di sasso. Intanto mica stiamo a parlare di musica. No, infatti. No, poi bisogna dimostrare che è una diretta. Ma soprattutto... Ma fermate il batterista che... Allora, quello sì. Mi sembra ampiamente dimostrato che siamo in diretta e... Incredibile, è tornata la musica. Mamma mia, ma perché quella è mutata quella traccia allora? Ne vogliamo parlare? Non lo so. Comunque, potrebbe risuccedere secondo me, a occhio e croce... Siamo un po' nella merda. Allora mi è appena venuta una nuova idea per un nuovo Greatest Hits. Il Greatest Hits dei problemi tecnici delle dirette. Non a caso questa cosa capita alla vigilia, cioè, nel momento in cui sto per partire con Traumi Fonici. C'è una sigla, vero? C'è una sigla. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo. Sono il vostro fonico. Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E su Radio Forte 100 Cell Avengers per traumi fonici oggi, per fortuna vostra, non vi parlo delle mie esperienze di vita che comunque sono anche un po' pallose, ma di un generale diciamo stato di cose, di attualità, ecco, di attualità. Perché? Perché quest'estate, verso luglio, su tutti i telefoni, tutte le chat di vari tecnici d'Italia, ma che dico d'Italia, d'Europa, compariva questo articolo postato, personalmente quello che è arrivato a me era del Huffington Post, questo giornale non giornale che tutti leggono, nessuno, Huffington Post, e nessuno sa pronunciare, e, che riportava appunto questo comunicato. La PAMA, che cos'è? La Pro Audio, insomma, è un consorzio americano di aziende produttrici di dispositivi audio. Producono il microfono che sto usando in questo momento, cioè ci sta la Shure, ci sta la Audix, ci sta la, insomma, tutti i marchi che forse pochi conoscono, ma comunque che sono parecchi. Che, grazie Iron Man, che passano sotto questo grande, sono americani, lo sapete che sono massoni nell'anima, quindi si sono riuniti in un cartellone di aziende che già ognuna di quelle c'ha un PIL di una nazione, e comunque pare che all'interno di questi consigli di amministrazione comincino ad esserci delle donne, e questo ci fa anche piacere. Perché dico che ci sono delle donne? Perché la questione che poi è arrivata ai telefoni appunto dei tecnici è questa intenzione della PAMA di introdurre una nuova nomenclatura nei cablaggi audio, ma in senso ovviamente neutro, cioè la ricerca del neutro, in poche parole, quella che, scusate se uso questo termine mainstream, la cancel culture, che si è diciamo conosciuta in questo ultimo periodo, o almeno si è definita così, perché poi già esisteva la volontà di impararsi a parlare un po' meglio, però insomma diciamo è arrivata anche al settore tecnico dell'audio. Che cosa succede? Nell'audio molti sapranno che esistono dei connettori cosiddetti maschio e cosiddetti femmina, per ovvi motivi legati a, diciamo, alla similitudine con l'anatomia umana. Questo è stato giudicato una cosa, diciamo, rivedibile perché le nuove generazioni appunto potrebbero interpretarla diversamente, potrebbero crescere con una nuova diciamo, concezione neutra dei connettori, anzi un po' più antica, quello che si diceva prima era spina e presa, plug and socket, e quindi diciamo essere... In qualche maniera politicamente corretti anche quando si cablano i palchi. Ora, in questa diatriba c'è finita anche il termine master and slave, per esempio, che sarebbe signore e schiavo, o padrone e schiavo. Non capisco. Un attimo, ci arrivo. Era per dire che comunque la questione, che già è scivolosissima, sto sudando parecchio, non riguarda solo il sessismo, in generale il politically correct nel parlare. Ora, quello che voglio dire è anzitutto che vabbè, ho raccolto i più disparati commenti sia da tecnici maschi che tecnici femmina, ma che il mio diciamo lo sto ancora elaborando, perché sono... Di mio sono stato, cioè sono abituato, per non dire educato siberianamente, a non sottovalutare questi tentativi che nel tempo si fanno per appunto riformare il linguaggio, perché come diceva qualcuno le parole sono importanti. Ragion per cui appunto, diciamo, superato il primo le prime battute che non vi sto a citare, ho pensato che potesse essere anche qualcosa di utile. Il problema al limite è diciamo autobiografico mio, per il fatto che ho una certa età e quindi non voglio giustificare diciamo qualsiasi cosa, però voglio dire che nella mia carriera ho imparato, cioè da 0 a 15 anni parlavo proprio male, poi da 15 anni in poi ho cominciato a capire quali parole era meglio non dire, quali avevano un significato che io non capivo e che quindi era poi diciamo superati i 30 anni è arrivata diciamo l'ondata della cancel culture. Nel frattempo la CPU di una persona, cioè il processore, si invecchia e poi riesce a processare sempre di meno, quindi se poi certi termini li devi mettere nella tua abitudine, l'abitudine quella pure sbrigativa, lavorativa, di quando stai facendo le cose al volo, può essere difficile. Quindi oltre a fare un grosso disclaimer su me stesso per dire che probabilmente ancora sbaglierò per qualche anno, non fare così perché sei vecchio, quello che vorrei dire, cioè che vorrei esprimere, è parecchia solidarietà verso coloro, verso gli eroi e le eroine che cercheranno di far valere queste cose negli ambiti un po' più duri, perché voglio dire, esiste il forte, esistono i palchi, esistono nella vita per esempio dei palchisti personaggi come Alessio. Allora, Alessio, yeah. Nominato, Alessio è un famoso direttore di palco, famoso proprio in Italia perché lavora per una ditta, diciamo, che gestisce i più grandi eventi che voi vedete in Italia. C'è il concerto di Madonna, c'è sta Alessio sul palco, direttore di palco. È il braccio destro di un altro grande direttore di palco che non c'è più, ma che diciamo è stato la scuola dei palchi per anni e anni, ma soprattutto passa per essere una persona leggermente scorbutica che io rivivo nei miei incubi. Cioè, questa è la parte un po' traumafonico, perché io non riesco a visualizzare me stesso che poi mi ritroverò prossimamente, se mai mi ricapiterà di beccare Alessio, a cercare di specificare certe cose sul palco. Ora immaginate il concerto di Natale o il concerto, che ne so, questi eventi televisivi super adrenalina con ritmi, partita incredibili dove ti cazziano qualsiasi, una domanda è troppa, due domande sei fuori, eccetera eccetera. Lui utilizza un metodo per parlare con i suoi palchisti, lui ha un radio gelato e i palchisti hanno un in-ear monitor, cioè non una cuffietta, non una cuffia, proprio gli in-ear monitor, quelli che usano i cantanti per sentire bene, vuol dire che quando ti cazzia col microfono sta lì, stai sul pezzo, tu lo senti che ti vibra nell'anima. Non fare così. Esatto, e per quello poi te lo sogni a notte. Allora, io non oso immaginare il momento in cui lui appunto mi dice di cablare, che ne so, il connettore maschio-maschio sul canale 8, e io gli dico, ma comunque sarebbe spina, sono già fuori, già me lo immagino. Sì. Però, detto questo, ripeto, solidarietà va a tutti coloro che cercheranno di migliorare il linguaggio in un mondo, comunque quello dell'audio, così come quello delle luci, che è stradominato da maschilismo e quant'altro, per cui gli fa pure un po' bene ragionare su certe cose. Per quello poi quando appunto è arrivato questo articolo quest'estate, la maggior parte dei fonici, non vi dico come ha reagito, però appunto staremo a vedere se questa cosa è una bolla di sapone. Da un certo punto di vista a me poi, cioè, quando, che ne so, si parla del bacio di Biancaneve non consensuale, cioè io poi non vi seguo più, ve lo dico, però su questa cosa del maschio femmine, cioè, diciamo, ci sto riflettendo, ecco, già Master e Slave, mamma mia, è stata, che dovrebbero diventare circuito primario e secondario. Poi non so, ce la prenderemo con Left e Right, perché sono troppo divisivi, sono faziosi, quindi certo, li chiameremo da una parte e non dall'altra. Vabbè, basta con le cazzate. E poi dipende dove stai, no? Se è fazioso Left o Right. Esatto. Quindi diventa divisivo per quello. Bravo, hai capito il meccanismo. No, poi a un certo punto ce la prenderemo col cacciavite a croce, perché è troppo cattolico. Esatto. Devo mettere gli altri. Quella è un'altra, capito? È proprio ancora i musulmani che si incazzeranno perché il cacciavite a croce. Cioè, vabbè, insomma. Attiriamo l'odio di chiunque con però, questa stanno sul pezzo, diciamo, questi fonici e le loro scuole di pensiero, dico, no? Sono sì, all'avanguardia, diciamo, sì, cioè, in questo periodo così è, cioè, non, si parla non, tanto in tanti campi, se non è un si mondo parte che da parte, voglio dire, dove dobbiamo partire? Sì. Cioè, da dire comunque che il, proprio questa molto cosa interessante. Non riguarda solo l'out, cioè, nel senso, se ci pensate, pure il parquet dell'IKEA si monta con dei pezzi concavi e dei pezzi con la protuberanza. Che il manuale di istruzioni svedese, dove la Svezia è campionessa dei diritti civili, lo chiama maschio e femmina. Quindi, però, vabbè. Vedremo poi forse se anche là è una svista, ancora non ci hanno fatto caso. Andremo a esplorare il mondo di Wammerland. Che mentre te fanno i lavori a casa stanno loro da soli, tu manco li senti che fanno queste cose, capito? Invece lo sbarco. Giusto, giusto, giusto. Comunque mi raccomando di parlare vicino al microfono quando dici queste molto. Cose culturali. Comunque da qui passiamo a un'altra, così, di palo in frasca, a un altro argomento. È un'altra band di cui vi volevo parlare oggi, semplicemente perché siamo nell'ambito dei traumi, i fatti vostri, i fatti miei, ma perché loro sono un bel gruppo e sono i Fichissimi. E lasciami gridare, lasciami sfogare. È un pezzo loro, ovviamente, io questo. Senza amore non so stare. Io non posso restare seduto in pace. Allora, la qualità sonora è già evidente. Questi sono i Fichissimi, un gruppo punk italiano degli anni Ottanta, che cito perché noi, adorandoli per il loro disco Mondo Fichissimo, come Happy Noise gli avevamo scritto, mandandogli il nostro disco e ricevendo da loro una lettera di risposta. Questa lettera di risposta ci ha praticamente gettato nella depressione più totale. Perché fondamentalmente quello che ci hanno risposto è: sì, bravi, ci piace tanto, però avete rotto. Cioè, la scena è leggermente satura di gruppi come voi, che fanno come noi, che famo con i NoFX. So già 5-6 anni che si sta sta roba, perché non fate un'altra roba, bambini? E noi ce la siamo un po' presa, no, male, però diciamo ci siamo rimasti male. Così come ci rimane male qualsiasi giovine che si affaccia, questa è la riflessione mia, il trauma, si affaccia al mondo della musica, trova quello che c'è oggi, perché per primo si ascolta quello, e le sue derivazioni o i suoi, diciamo, obblighi di dire grazie al mondo prima, cioè poi arrivano dopo. Cioè il fatto che poi ti dicono: guarda che questi sì, ma prima c'è stavano quell'arti punk di 77, mo ti devi sentire, ci sta tutto. Io ho sempre avuto dei ragazzi più grandi che mi dicevano, mi consigliavano, eccetera. Dopodiché lasciatemi pure vive, cioè nel senso, io sono nato in questo anno, mi sono goduto la ristampa del punk, un'altra cosa, era più patinato, non era più quello del 77, no? Ma cioè, il fatto che io lo abbia, diciamo, vissuto senza preconcetti non è male, ma per amore della musica lo dico, nel senso che poi i generi si sono evoluti, le mentalità si sono evolute anche grazie a questo, al fatto che c'erano pischelli che non ne sapevano una minchia del mondo di prima, arrivavano, sentivano quello, gli piaceva, lo mischiavano con un'altra cosa che sentivano loro in quel momento e veniva fuori un nuovo. Questo, cioè, non voglio dire che può succedere anche con l'indie, però diciamo che è lo stesso fenomeno che accade quando arrivano questi calcutti vari che ti fanno la stessa roba di Venditti, Battisti di 30 anni fa, ma rifatta oggi con i sinti al posto delle pianole, come diceva una famosa canzone. E però tutti quelli vecchi come me dicono: vabbè, ma questo faceva Battisti. Ma a loro che gli frega? Cioè, fondamentalmente ci siamo sentiti già tutti Fichissimi. Questa cosa è una piccola, diciamo, ingiustizia, ma una piccola cosa, diciamo, di natura, il ciclo della natura. Non fare niente, stavo proprio. E quindi per questo motivo io un pochino me la presi a male, ma in realtà li ho tenuti nel cuore. Per cui quella che sentiamo adesso è la cover di Suono Bar della tipa della casa occupata dei Fichissimi, ai quali non ho osservato rancore. Un giorno in uno scuota appena sveglia, in cucina erano appena le due, gli occhi si sono chiusi un po' sgranati, stoffa troppo corta da sole, un po' tutta sulle sue. Questa notte ha ballato tutto quello che ha potuto, glielo leggi in faccia tutto quello che ha bevuto. Mi lancia uno sguardo, che succede non lo so, non riesco a parlare neanche un po'. Sono innamorato di una tipa di una casa occupata con la rete verde in viola e la schiena tatuata con l'anfibio tuo prodotto, faccia sempre incazzata, ormai son convinto che come me non ce l'è, come lei non ce l'è, come lei non ce l'è. Un giorno in uno squat con la bomboletta in mano preparare lo striscione, per strada sbirri dappertutto, ma saranno cazzi loro alla manifestazione quando marcio insieme a lei per gli spazi occupati. Vorrei che fossimo almeno fidanzati, alla band in mano e nell'altra la mia, non penso più neanche alla polizia. Di una tipa di una casa occupata con le peli verde e viola e la schiena tatuata, faccia sempre incazzata, ormai son convinto che come lei non ce n'è, come lei non ce n'è. E di nuovo in diretta su 100 Gel Avengers. Che cosa sta per succedere, Virgi? Dun dun dun dun dun. Oh, sta per God. Iniziare anche Ariel. Anche innanzitutto Ariel sta abbaiando. Cioè, Ariel si è imbizzarrita, ti dico solo questo. Sta iniziando la rubrica. Io chiederei l'aiuto del pubblico per andare a calmare il cane. Ok, Silvano. Prego, pubblico, grazie. Ciao. Che non è il pubblico, l'aiuto della regia. No, che cosa sta per succedere? Sta per succedere che stiamo di nuovo per affrontare l'argomento Beatles, ma con un piccolo con una piccola, diciamo, attenzione alla puntata futura che ci sarà, e visto che introdurremo una nuova rubrica sui le ultime ruote del carro delle band, fondamentalmente, quindi sui bassisti. Ma tu che parli così dei bassisti? Beh, io lo dico perché mi ci sento bistrattata. L'ultima ruota del carro. L'ultima ruota del carro, perché tutti quanti dicono devi abbassate, devi alzate, devi levate, devi fate, devi fare quello, tanto non te sento. Ecco, no, che sei sorda è un altro discorso. È vero, me l'hanno detto tanti che mi devo alzare perché non mi sento. Ma comunque non stiamo parlando di me in quanto bassista, ma dei bassisti effettivi, insomma. Giusto, giusto. Ecco, e quindi, visto che insomma abbiamo un perfetto connubio, possiamo parlare del bassista dei Beatles, e quindi io direi che innanzitutto possiamo partire con la sigla. Ogni volta come la prima volta. Eh sì, sono contenta di essere anch'io parte di quelli che spaccano le orecchie alle persone che ci ascoltano. E niente, cosa... Iniziamo subito a parlare di Paul McCartney. Beh, iniziamo a parlare della tecnica di Paul McCartney, che era molto rudimentale, calcolando che Paul McCartney nacque come chitarrista e divenne bassista perché John e George, nel momento in cui il bassista precedente a lui se ne andò perché incapace, si rifiutarono categoricamente di suonare il basso, e quindi Paul McCartney si ritrovò con un basso fondamentalmente di legnetto e cartongesso, che è il famoso basso Hofner Violin Bass, diventato iconico dopo che appunto l'ha iniziato ad utilizzare il bassista dei Beatles. Si ritrovò a dover suonare questo strumento senza averne troppe competenze, o comunque uno strumento comunque nuovissimo, perché ricordiamolo, il basso elettrico è nato nel 1951, quindi comunque c'era poco spazio per vedere che cosa c'era stato di bassismo in quel momento. E quindi iniziamo ad analizzare un pochino come Paul McCartney poteva aver iniziato a suonarlo. Ecco, sicuramente lui iniziò con la tecnica del palm mute, quindi noi riconosciamo molto bene il suono di Paul McCartney, perché o con il plettro o con il pollice o con le dita, diciamo che aveva un suono molto stoppato. Molto stoppato, molto cicciotto, molto, molto insomma d'accompagnamento. E proprio in base a questo suo modo di iniziare a suonare il basso, noi possiamo partire dagli esordi dei Beatles, analizzando il fatto che lui iniziò proprio prendendo ad esempio i walking bass più, diciamo, più utilizzati dai bassisti in quel periodo. Era una tecnica che comunque derivava dal jazz, dal rock and roll che stava iniziando da qualche anno già ormai, e dal blues. Quindi possiamo partire con il primo esempio del pezzo che stiamo mandando. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Ecco. Ma chi è sto basso sopra? Ero io. Senti come canta. Brava Virgil. Non ho trovato abbastanza, cioè tracce abbastanza pulite, diciamo, del basso di pollo, quindi mi sono permessa più che altro da quello che vedo dalla traccia mi sa che è di quelle dei Beatles pannate tutto a destra, tutto a sinistra, quindi chissà se in radio si sentiva il basso. L'ho suonato no, il tuo sì, ma quello dell'originale e non l'ho messo proprio, cioè, non c'era, cioè, proprio, cioè, perfetto, solo perfetto. Il mio suonato, sono un pochino autoreferenziale anch'io, scusate, chiedo, sono venia. Nella trasmissione anch'io, chiedo venia. E dopodiché, insomma, avendo analizzato il walking bass di Paul McCartney, anche Paul McCartney iniziò ad evolversi, quindi la sua digievoluzione lo portò a trovare una soluzione, diciamo, che era stata già utilizzata, ma soprattutto era una soluzione che aveva già escogitato Mozart, non per andare a citare i grandissimissimissimi, ma insomma aveva capito che se doppi le basse con le alte riesci a dare un senso nuovo alla canzone e alla musica, insomma. E quindi in questo momento Paul si ritrova a decidere di doppiare i riff di chitarra con il proprio basso. E questo è un altro esempio che possiamo guardare. Riproduco. Scusa Alexa, non te devi mettere in mezzo quando mando le playlist, perché se riproduci tu io mi perdo il segno. Grazie Alexa. Con didascalia a margine della maestra Viola. Scusate ragazzi, grazie, pensavo Viola. Non sentisse. No, stavo dicendo è fighissimo, lo vorrei provare, me lo insegni? Brava, quando questo, vuoi. Questo pezzo. Mia cava. No, grazie Virgi, un cuoricino. Quindi diciamo che è sempre più confidente sui riff di basso doppiando le chitarre. Paul iniziò sempre evolvendosi sempre di più negli anni a creare dei riff indipendentemente dagli strumenti che c'erano, diciamo, nella band, quindi indipendentemente anche dalle chitarre. Diciamo che lui si fissò particolarmente con la creatività nei pezzi di George Harrison, questo è abbastanza visibile in tutte le canzoni appunto di George. E un esempio di Paul McCartney che indipendentemente dalle chitarre crea un riff di basso importantissimo è Taxman. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Comprendendo sempre di più, anche vedendo insomma che la musica si stava evolvendo, non soltanto i Beatles e non soltanto Paul McCartney, comprendendo sempre di più il ruolo del bassista, Paul McCartney iniziò ad esplorare il mondo del groove. I groove diventarono parte integrante del suo repertorio bassistico, e al di là di pezzi come Well My Guitar Gently Weeps, in cui abbiamo un basso molto semplice ma veramente molto molto groovoso, un esempio lampante e iper bistrattato è quello di Obladi Oblada. Bene, abbiamo esplorato il mondo del groove e Paul McCartney non si fermò qui, perché diciamo arrivati all'apice anche della sopportazione tra di loro, nel periodo finale dei Beatles avevamo trovato questo modo di suonare anche in precedenza, ma insomma abbiamo un esempio lampante verso la fine. Paul McCartney iniziò a suonare inventando delle vere e proprie melodie indipendenti sia dalla voce sia dalle chitarre e dagli strumenti armonici della band. Cioè poteva suonare da solo, insomma. Poteva suonare da solo, vabbè, ma io questo lo dico di tutti i bassisti, quindi... Cioè, poteva pure uscire dal gruppo, insomma. No, infatti stava lì. Poco ci mancava. E Something è un esempio perfetto in cui il basso rimane, in questo esempio che stiamo portando, quello originale. Io non l'ho toccato perché è uno dei miei bassi preferiti nel mondo e quindi insomma ci dobbiamo godere il basso di Paul McCartney in una ennesima canzone di George Harrison dove chiaramente dava il meglio di sé. Quindi Something, qualcosa senza Virginia. Ma dove sono gli altri? I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Mamma mia, Virginia, quando fai montaggi. Quanto è buona sta canzone. Fa? Ma come faccio? Ma come fa lui? Quindi, visto che questa rubrica è una rubrica crossover tra i Beatles, la rubrica dei Beatles e la rubrica futura dei bassisti, adesso andiamo avanti e non parliamo solo del gruppo di Paul McCartney, ma anche di Paul McCartney, bassista solista. Infatti, conclusi i Beatles, Paul continuò a sfornare grandissime linee di basso innovative e anche a volte dissonanti, e questo diciamo che secondo me è un grande esempio di confidenza nel proprio strumento, non so come dirlo, comunque sicurezza di sé. E un esempio infatti è portato da Goodnight Tonight, un pezzo di Paul McCartney and the Wings, in cui appunto possiamo trovare delle dissonanze che però ci fanno capire che Paul McCartney aveva proprio deciso di essere il centro del proprio brano in maniera solida, e questo è l'esempio. Lasciamo immaginare il resto della canzone, insomma, parliamo di basso, parliamo di basso. Top. E per concludere questa disamina. Aiuto. Per concludere questo excursus nel bassismo di Paul McCartney, vi lasciamo con un pezzo di Paul McCartney da solista, in cui però possiamo riconoscere immediatamente il suono del basso di Paul McCartney. Cioè, inizia la canzone, non c'è bisogno che inizi a cantare, già si capisce che dietro ci sta lui. Quindi vi lasciamo con Silly Love Song, regia, brano. Ah, così si fa, regia, brano. Non ne ho idea. Ma di lei? Ma che siamo lacché? So E di nuovo in diretta su Radio Forte 100 c'è l'Avengers, la vita è un mozzico, sono le 18.51 e a me l'ingrato compito di tentare di mettere a segno anche questa volta i cigni di Balacà senza la Gabri. Perché sigla. Volevo sempre, come al solito, dire che la Gabri questa mattina, come al solito, è partita per andare in Calabria e mi ha lasciato solo col suo dolore. Ok, adesso è il momento di dire sigla. Ma non lo senti che è uguale ai cigni di Balacà? E benvenuti ai cigni di Balacà con l'indegno sostituto della Gabri, la quale si occupa normalmente di casi di plagio. Non fare così. Vabbè, io mi butto sempre giù. Comunque, la rubrica, appunto, dicevo, tratta normalmente casi giudiziari veri, ma solo quando c'è la Gabri che si ristudia. Quando ci siamo noi, si cazzeggia. No, volevo dire, quando ci siamo noi, il popolo trova spazio per le sue istanze. Che cosa ci ha detto il popolo questa settimana? Cioè, io. Che c'è questo pezzo qui. Vabbè, mo mi sembra un po' preso un po' troppo in là. Comunque editiamoli i pezzi, perché sennò poi non è possiamo usare tutto qua. Okay. Questo volevo dire. Why don't you get a job degli Offspring? Ora, mi fa gioco anche un po' il fatto che la Virgi l'abbia citata prima, perché il pezzo in questione di cui gli amici Offspring si sarebbero appropriati è questo. Che cosa succede? Che è abbastanza evidente perché suona la assonanza fra questi due pezzi, non tanto, cioè, per niente per le note, ma per tutto quello che non sono le note. Infatti poi la causa non c'è stata. Perché? Perché questo è un delitto perfetto, perché questa non è una cosa, diciamo, utilizzabile in tribunale, perché come sappiamo ci si basa su dei criteri di note che questo pezzo supera. Dopodiché, questo pezzo nel senso questo pezzo che stavamo dicendo trae ispirazione in quella maniera che normalmente io ho detto essere lecita, nel senso, nel mio mondo, quando uno fa l'omaggio dice grazie, cioè io Offspring punk rock de oggi prendo palesemente un pezzo di Beatles strafamoso, ma io, cioè, senso, poi quando eventualmente questa cosa mi viene chiesta non è che dico faccio il vago, e invece pare che io a Springaro proprio abbiano proprio fatto i vaghi, quindi è un caso di omaggio senza dire grazie. Questo perché se andate a cercare su internet trovate soltanto un tentativo da parte di un DJ in radio di comparare i due pezzi, caduto un po' nel vuoto, così come una cosa normale. Dopodiché anche loro avranno fatto un po' leva sul meccanismo di cui parlavo prima, del diciamo washing delle generazioni che non si ricordano più un cazzo, e quindi gli puoi proporre pure una cosa così che è oblati oblata spiccicata e loro non se ne accorgono. Vabbè, ma 40 anni dopo giustamente. Ma io sì. Ma Virgi sì. Detto ciò, l'altra cosa che Virgi ha fatto per favorire un po' i cigni di Balaka che volge al termine è parlare di Paul McCartney, perché Paul McCartney è un personaggio che anche nei cigni di Balaka ha la sua fottuta importanza, in quanto ne abbiamo parlato già in passato, il famoso dialogo fra Paul McCartney e Michael Jackson, dialogo nel quale Paul McCartney consiglia a Michael Jackson di comprare i diritti di canzoni e lui seguì il consiglio e comprò i diritti dei Beatles. Però appunto poi avevamo raccontato cose che nessuno sapeva, e cioè il fatto che Paul McCartney, temendo di essere defraudato, cercò di convincere Michael Jackson a comprare una squadra di calcio, abbiamo già parlato di questo, e questa cosa ebbe talmente successo con Michael che poi loro tornarono allo stadio altre volte, perché Paul diventò un po' un agente di business, un po' un consigliere economico delle grandi star, e quindi si trovò a diciamo invitare anche un'altra grande star insieme a lui e Michael allo stadio. E noi abbiamo un documento inedito che io ho trovato quest'estate perché faccio le ricerche, e che ha addirittura la sigla, incredibile, cioè l'ho trovato così che già c'aveva la sigla. Lei è un maestro. Ok, lo ascoltiamo e con questo concludiamo i cigni di Balaka e forse anche la puntata. Questa si chiama Paul e Mickey, nemici amici. Cosa c'è? Ma Paul, non capisco perché ha invitato anche lei. Oh, ancora questa storia. Ti ho spiegato che si tratta di un investimento. Oh, anche lei ha molti soldini. Qualcuno potrebbe riconoscerti. Non fare lo stupido. Nessuno farà caso a noi. Siamo in incognito. Hello! Te lo avevo detto. Non essere maleducato con la nostra ospite. Andiamo. Siete pronti? Shh. Piano, piano. Siete caldi? Shh. Bene, anch'io. Non farti sentire. Oh, come on. I like Italia, il paese dell'amore. Piano, Luis. Qualcuno potrebbe sentirti. Indossa questi occhiali ed entriamo. Da questa parte. Let's go. Vieni, Michael, da questa parte. Abbiamo preso dei posti in tribuna, mia cara. Sarà un match molto importante. Il derby della capitale. Oh, oh! Paul! Che cosa c'è ancora? Mi sembra che la nostra ospite si stia annoiando. Oh! Oh, oh! Qualcosa non va, cara? It's fucking boring. What am I doing here? Football. Oh. What's wrong with you? Please, let's go away. Andiamo. Wait a minute. What? Wait a minute. Wait a minute. What's this? Ma Paul. I like it. I like this melody. Oh, oh, oh. It's perfect. Oh, oh. It's perfect. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Ed è quindi in chiusura che possiamo vantarci di aver anche rivelato le origini di questa hit di Luis Veronica Ciccone, in arte Madonna, che trasse appunto ispirazione dagli Ultras della Roma. Con questo io vi saluto, vi ringrazio, si dice anche Forza Roma, abbassa Lazio, ma soprattutto ci rivediamo fra 15 giorni, vi voglio bene. Sigla! Ciao a tutti! Ciao! Ciao. Belli. La musica si riparte.